tipo la scarico e la carico. avete già la mia cercata? Sì, grazie. Sì, l'ho fatta, gliel'ho portata lì alle 3, alle 2, alle 3. Ma no, perché tanto mi dovevo far portare, venire a prendere comunque, quindi ho detto piuttosto che la porto lì a casa, quindi ce l'ha lì. Sì, sì. Certo, ok. Sì, facciamo, volentieri ti guardo il kit per la revisione delle pinze. Va bene. Ciao, grazie. Ciao, buona serata, ciao ciao. Thank you. Prendo una cosa. Prego. Lei lo sapeva di questo?